Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a Salva Danaio e buona giornata da Deborah Rosciani. Con il 2013, neanche a dirlo, è aumentata di nuovo la tassazione sul risparmio. Dal 1 gennaio l'imposta di bollo sui prodotti finanziari passa dallo 0,10 allo 0,15%, che va a sommarsi alla misura minima annuale di 34,20 euro sul cumulo degli investimenti detenuti presso il medesimo intermediario finanziario. Per quella che ormai è stata definita mini patrimoniale, viene inoltre eliminato il massimale di 1.200 euro rimasto in vigore solo per lo scorso anno a favore di tutti gli investitori. Quindi queste le regole generali, ma sappiamo già che in tanti vi starete chiedendo, pensando alla vostra situazione specifica, quali sono i prodotti interessati, se ci sono dei profili esenti da questa tassa che non piace a molti, a moltissimi, e che colpisce anche tanti piccoli risparmiatori, soprattutto i piccoli risparmiatori, al punto che si sono attivate nelle scorse settimane, nei mesi passati, delle campagne di sensibilizzazione per cercare di fare marcia indietro rispetto a questa impostazione, o comunque di sensibilizzare il governo, anche se adesso, come è noto, si sta pensando ad altro e probabilmente a tutto questo difficilmente verrà messo mano. Comunque, tra queste campagne di sensibilizzazione, fra queste, quella che ha avuto probabilmente più riscontri è stata quella portata avanti da una società di gestione del risparmio che si chiama A Come A. La campagna si chiama Risparmiamocelo e con noi oggi il presidente di A Come A, animatore di Risparmiamocelo, www.risparmiamocelo.it, Alberto Foà, che è ritornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Buon anno. E buon anno, grazie altrettanto. Però naturalmente, per al di là del fatto che naturalmente ci spiegherà la ratio di questa campagna e per quale motivo appunto è stata sollevata in maniera così forte questa campagna di protesta, cercheremo anche di andare nel dettaglio per capire di più quanto incide effettivamente sul nostro risparmio questa formulazione, la formulazione attuale della mini patrimoniale. Perché lo dico? Perché probabilmente, siccome in molti forse hanno concentrato prevalentemente la propria attenzione sull'IMU e su tante altre notizie che ci hanno riguardato nell'ultimo mese, la perdita di posti di lavoro, tema sacrosanto naturalmente, quindi le tredicesime che magari non arrivavano, tutte le spese che abbiamo dovuto fare lo scorso mese, siccome i rendiconti degli investimenti arrivano in queste settimane, allora probabilmente sarà proprio nei prossimi giorni che si attiverà la più grande attenzione intorno al tema di questa mattina. Per cui, per capire bene anche come funziona la mini patrimoniale, tema del quale ci siamo occupati naturalmente tante altre volte, ma per ritornarci e spiegarlo bene questa mattina ci facciamo aiutare anche da un altro analista, Marcello Ferrara, dottor Ferrara dell'Ufficio Studi di Consultic, una società appunto di analisi indipendente. Ferrara, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Peraltro, siccome in tema politico siamo in regime di totale par condicio, siccome ad Alberto Foà facciamo spiegare come funziona la campagna Risparmiamocelo, che può naturalmente raccogliere ancora molte adesioni, pensate che su Facebook siete in 13.000, Foà? Sì. E cresciamo di varie centinaia al giorno. Ecco, bene. Allora mi pare giusto che invece a Ferrara facciamo raccontare, spiegare, anche se non è proprio attinente al tema di questa mattina, però ci è sembrato appunto corretto farlo, che voi state promuovendo una raccolta di firme per, come dire, invitare, spronare il Ministero dell'Economia, la Consob, a rendere operativo l'albo dei consulenti indipendenti. Ferrara, voi come sta andando? Esattamente, stiamo ricevendo molte adesioni, ci stiamo appunto facendo, come diceva correttamente lei, stiamo promuovendo questa campagna di sensibilizzazione a favore della promozione della consulenza finanziaria indipendente, quindi esente dai conflitti di interesse. Ecco, benissimo. Mi pare che il mondo del risparmio si è svegliato quest'anno, perlomeno sta succedendo da qualche mese, con una verve particolare, quindi ci piace insomma tutto questo fermento che viviamo, segno che evidentemente la famiglia italiana, che per definizione è una grande formichina, una grande risparmiatrice, appunto chiede sempre di più attenzione. Il risparmio si va erodendo, almeno quello che abbiamo, insomma cerchiamo di conservarlo al meglio con la massima attenzione. Allora, è proprio in questi momenti così difficili che, come ricorderete, il governo ha dovuto varare il decreto Salva Italia, poi il Cresci Italia, il decreto sviluppo, tutti i provvedimenti sulle più o meno liberalizzazioni, e quelle ancora noi abbiamo viste molte. Ma le liberalizzazioni se ne sono viste pochine, diciamo. Esatto, comunque sì, no, ci sono degli ascoltatori che stanno esprimendo la loro solidarietà nei miei confronti per la mia voce, quindi devo far parlare un po' più voi. No, dicevo, tra tutti questi provvedimenti è arrivata anche questa mini patrimoniale sui prodotti di investimento, in realtà per essere esatti sulla rendicontazione dei prodotti prodotti di investimento, sulle comunicazioni finanziarie. Comunque noi, per renderla più semplice agli ascoltatori, la chiamiamo mini patrimoniale, e effettivamente, ancora una volta, a parte le campagne di divulgazione che su questo tema sono state fatte, forse ancora i risparmiatori non si sono accorti di quello che potrà succedere. E perché è necessario adesso, Foa, mi aiuti ad enfatizzare questo argomento? Innanzitutto, come giustamente ricordava lei, è stata chiamata imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie perché la parola patrimoniale dava fastidio, quindi si è ricorso a questo escamotage di natura verbale per vendere un provvedimento fiscale senza chiamarlo col suo nome. Probabilmente i partiti, diciamo, più di matrice liberale non volevano la patrimoniale, i partiti che si collocavano più invece a sinistra volevano la patrimoniale. Siamo in regime di par condicio, quindi attenzione a quello che dice. Sono assolutamente totale. Quindi diciamo che tutto sommato nessuno ha ottenuto quello che voleva, perché la patrimoniale è stata introdotta ugualmente. La cosa peggiore però è che è stata introdotta la patrimoniale che è regressiva. Ricordo che ieri uno dei leader di partito ha detto che per esempio l'IMU andrebbe tolta per importi sotto i 500 euro. Qui invece, nel caso dell'imposta di bollo, siamo riusciti a fare esattamente il contrario, cioè a gravare di un'aliquota più elevata chi ha meno soldi, perché col fatto che c'è un'imposta di bollo minima a 34,20 euro, evidentemente fino a 22.800 euro, questi 34,20 euro gravano più dell'1,5 per mille, perché l'imposta di bollo teoricamente dovrebbe essere proporzionale all'1,5 per mille, ma col fatto che lei sta già facendo riferimento peraltro all'aliquota che scatta da quest'anno. Sì, beh, ormai diciamo, siamo nel 2013, no? Quindi nel 2013 l'imposta di bollo dovrebbe essere dell'1,5 per mille. Col fatto però che c'è un minimo di 34,20 euro, tutti coloro che hanno patrimoni inferiori a 22.800 euro di fatto pagano più dell'1,5 per mille, fino ad arrivare, diciamo, all'estremo paradossale che chi avesse 100 euro in un prodotto di investimento pagherebbe il 34%, o addirittura chi avesse 34 euro pagherebbe il 100%. Quindi stavo dicendo prima che i partiti più di area liberale hanno votato lo stesso un'imposta patrimoniale, anche se si chiama imposta di bollo. I partiti invece più di sinistra sono riusciti a votare una patrimoniale che grava più su chi ha di meno e meno su chi ha di più. Quindi penso proprio che il nuovo governo, qualunque sarà, dovrà in qualche maniera affrontare la questione. Perché la tassazione, diciamo, sulle attività, e qui parliamo anche dell'IMU per esempio, sempre di più ha un'impostazione di carattere regressivo, cioè sempre di più si va a colpire, diciamo, i piccoli risparmiatori o i piccoli proprietari di casa, perché sono chiaramente i più numerosi, quelli più facilmente aggredibili. Ma questo non credo che sia corretto, non credo che sia condivisibile da nessuno, diciamo. Allora, io tra l'altro non ho ricordato che naturalmente, come sempre anche questa mattina, gli ascoltatori possono intervenire in diretta chiamandoci all'800 24 00 24, scrivendoci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Foaxi. Ecco, no, poi vuol dire altra cosa. Cosa sta facendo Berlusconi ieri sera, che insiste sempre nel voler parlare? Sto scherzando. Volevo semplicemente aggiungere che poi, oltre a questi aspetti di iniquità, di regressività, che sono molto pesanti nel caso dell'imposta di bollo, vi è l'aggravante che l'imposta di bollo è anche discriminatoria sotto un profilo concorrenziale, cioè alcuni prodotti sono colpiti in un certo modo e altri prodotti sono molto più colpiti. Guarda caso, quest'imposta favorisce i risparmi collocati presso banche, poste, assicurazioni, cioè i poteri forti di questo paese. Il risparmio gestito invece viene il risparmio colpito, gestito, anche gli investimenti diretti, gli ETF vengono invece colpiti molto di più, cioè viene privilegiato, diciamo, l'impiego del risparmio di tipo opaco, cioè quello in cui metti impieghi i tuoi soldi che però non sai dove vanno a finire, perché li affidi alle banche, alle poste, alle assicurazioni, che poi li investono loro, e viene invece penalizzato l'investimento di tipo diretto in fondi, in titoli, in ETF, in gestioni patrimoniali, cioè tutte quelle forme di investimento trasparenti dove invece il risparmiatore sa dove vanno a finire i propri soldi. E secondo me anche questo, tutto sommato, la dice abbastanza lunga su un come si può dire, su un indirizzo di tipo dirigistico, un po' di ritorno agli anni 70, che stanno prendendo, che sta prendendo piega e sta prendendo, diciamo, sì, insomma, quell'indirizzo che sta un po' prendendo, secondo lei, adesso l'orientamento politico. Va bene, adesso lasciando da parte, diciamo, questi commenti, c'è anche da dire che nel momento in cui si è legiferato introducendo anche questa misura si aveva veramente poca visibilità del brevissimo termine, c'è stato un momento di grande sgomento, come lei sa, per il nostro paese, per cui è stato tutto lecito, poi per molte cose si è fatto marcia indietro, ci sono stati degli aggiustamenti, probabilmente forse su questo tema. Però le lobby non sono state talmente, abbastanza efficaci, talmente scarsa che stati sempre, diciamo, abbastanza rapidi ad esentare banche, poste, assicurazioni. Eccoci qua. Lì la visibilità non si perde mai. Non si perde mai. Allora, Marcello Ferrara, vengo da lei perché, esattamente come dicevo all'inizio, il fatto che questo argomento, a parte il lavoro fatto magari dai giornali finanziari specializzati, ci metto anche Plus 24, il collega Gianfranco Ursino con Plus 24 ha scritto tantissimi articoli per spiegare appunto com'era formulata questa nuova tassazione, come incideva la mini patrimoniale in relazione al tipo di prodotto di investimento che si ha in portafoglio, appunto in molti in realtà hanno totalmente trascurato questo argomento, e a dimostrazione di questo io sto notando anche i messaggi che ci stanno arrivando appunto da parte degli ascoltatori, ognuno dei quali chiede che cosa succede su questo prodotto, io ho un conto di deposito, io ho delle vecchie Parmalat in conto, io ho un libretto postale, per cui questo appunto ribadisco a dimostrazione del fatto che si è comunicato poco. Allora noi cerchiamo di fare questo lavoro. Marcello Ferrara, le chiedo intanto, insomma, qual è il suo giudizio generale su questa tassazione? Anche lei condivide l'aspetto appunto della totale mancanza di proporzionalità, si colpiscono in maniera troppo penalizzante soprattutto i piccoli importi risparmiati, i grandi patrimoni vengono ancora una volta salvaguardati, qual è la sua visione da consulente indipendente? Tra l'altro mi fanno notare che quando abbiamo parlato della raccolta di firme di prima da indirizzare al Ministero dell'Economia che voi state facendo, la si può fare collegandosi al vostro sito, quello di Consultic, giusto? Così concludiamo questa cosa. Esattamente, si può firmare l'adesione a quella che è questa campagna di sensibilizzazione di cui Consultic si sta facendo promotrice direttamente dal sito consultic.com. Per quanto riguarda invece gli aspetti fiscali di cui si parla, stiamo parlando, diciamo che sicuramente c'è un aspetto di regressività della norma rispetto agli investimenti che siano di cifre particolarmente modeste. Tuttavia, se andiamo a vedere come sono evoluti gli aspetti normativi negli ultimi due anni, sostanzialmente, visto che abbiamo visto due successive modificazioni, una dal governo Berlusconi nell'estate del 2011 e successivamente quella del governo Monti alla conclusione del 2011 con il decreto Salva Italia, questa regressività non possiamo dire che prima non ci fosse ed è stata istituita da queste norme. È vero, c'è una regressività per le cifre particolarmente basse, ma c'è una proporzionalità che è stata istituita, proprio perché c'è un minimo a 34,20 euro, ma da quest'anno in avanti non abbiamo limiti massimi. Se andiamo a vedere com'era la normativa prima del luglio del 2011, pagavano tutti quanti piccoli e grandi risparmiatori 34,20 euro, per cui era una somma fissa e le somme fisse sono regressive per definizione, in quanto non c'era nessun aspetto di proporzionalità. Adesso sicuramente c'è una regressività per i risparmiatori molto piccoli, ma c'è una progressività e anche importante, perché su grandi patrimoni le differenze del pagamento dell'imposta di bollo sono significative. Non è completamente d'accordo Alberto Foà, perché? Perché non si può assolutamente parlare di progressività, si può parlare di proporzionalità, che è un concetto diverso da quello di progressività. Esattamente, esattamente, sì. Esattamente. Proporzionalità. Abbiamo... Proporzionalità, appunto, abbiamo utilizzato però c'è un incremento. E volevo anche dire che le cifre non sono particolarmente piccole, perché l'imposta di bollo è regressiva per patrimoni inferiori ai 22.800 euro. Io ricordo che circa l'80% degli italiani ha patrimoni inferiori a 22.800 euro, quindi vuol dire che vengono colpiti quasi tutti. Se per esempio prendiamo la media dei sottoscrittori di fondi investimento, che sono 6 milioni, il patrimonio medio investito è di 10.000 euro. L'80% dei sottoscrittori di fondi ha meno di 22.800 euro, e la stessa cosa vale per altre forme di impiego. Allora, la sua risparmio. Posizione l'abbiamo capita. Sì, Ferrara, volevo una puntualizzazione. Certo. Non è che è una, e non voglio difendere nessuno, non è un'istituzione da parte del governo Monti e con il decreto Salva Italia, ma i 34,20 euro c'erano ante governo Monti, sì, sì, e ante modifica Berlusconi, per cui non è una tassa in più. C'erano degli ascoltatori pronti con le loro domande, poi nel frattempo a microfoni spenti con Alberto Foà ci sono venuti in mente anche altri aspetti da appunto affrontare insieme a quelli che vi ho già indicato. Comunque Massimiliano ci chiedeva come viene liquidata, tutta in una volta o ratealmente. Ferrara, vengo da lei, dipende dal prodotto di investimento che sia, se sia un conto corrente funziona in un certo modo, se sia un fondo di investimento viene pagata in maniera diversa? Allora, dipende dalla rendicontazione che viene fatta da parte dell'istituto bancario. Abbiamo una eterogeneità di comportamenti da questo punto di vista. Potrebbe esserci dei pagamenti trimestrali, tipicamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, o viceversa un pagamento unico, tutto omnicomprensivo a fine anno. Quindi c'è un po' di eterogeneità da questo punto di vista. Ecco, quindi dipende, diciamo, dal tipo di rapporto che si intrattiene con l'intermediario prescelto. Si può aver fatto, dipende, che ne so, un contratto di rendicontazione della banca, che varia da istituto a istituto. Per il fondo di investimento FOA come funziona? Ma non è che dipenda dalla tipologia di rendicontazione della banca, dipende dalla tipologia di rendicontazione dell'intermediario finanziario, perché non sono coinvolte solo le banche. E più che dalla tipologia, dipende dalla periodicità della rendicontazione. Quindi, ecco, lei per esempio e i suoi clienti che rendicontazione noi rendicontiamo fa? Una volta l'anno, quindi viene tutto applicato in un'unica soluzione, ma ci possono essere intermediari finanziari che rendicontano due o quattro volte l'anno, quindi ogni intermediario finanziario ha un suo tipo di rendicontazione, che tra l'altro in alcuni casi può anche essere scelto dal cliente. E se le rendicontazioni sono, che ne so, 12 una volta al mese, la tassa viene divisa in 12. Se sono è una, viene pagata in un'unica soluzione. Senta, se io ho un conto corrente, l'imposta di bollo chiaramente me la trattiene direttamente la banca, no? Sì. E questo mi sembra pacifico. Io ho un fondo di investimento e l'ho sottoscritto, ammettiamo, presso A come A piuttosto che presso un'altra società. Naturalmente voi non siete banca, per cui non potete fare un prelievo diretto dell'imposta di bollo. Certo. Come vi comportate con i vostri clienti? Come fate la trattenuta? Per quegli intermediari che non hanno un conto corrente d'appoggio, come tipicamente sono gli intermediari bancari, quindi se per esempio un risparmiatore ha degli investimenti in un deposito amministrato e su quelli deve pagare l'imposta di bollo, la banca addebita il conto corrente d'appoggio. Per quanto riguarda un sottoscrittore, quindi se io ho 5 BTP e li ho sottoscritti con la mia banca, è la banca che anche in questo caso sul dossier titoli mi fa direttamente il prelievo. No, la banca addebita il conto corrente, sì. Dopodiché sarà il... L'ho banalizzata in misura estrema. No, perché è un dettaglio importante, ah, no? Ecco. Cioè, nel deposito amministrato in cui il risparmiatore ha dei titoli presso una banca, poi a valere su questo deposito amministrato il risparmiatore ha un conto corrente d'appoggio. Quindi la banca che cosa fa? Addebita il conto corrente. Poi sarà il risparmiatore a vedere quale dei titoli del deposito amministrato vendere per pagare l'imposta di bollo. Nel caso invece di un sottoscrittore che abbia sottoscritto dei fondi investimento presso la SGR, l'SGR, non potendo addebitare un conto corrente d'appoggio, deve scegliere in qualche maniera quali fondi investimento o quali quote vendere per pagare direttamente l'imposta. Dovete di bollo. Fare questa operazione concordandola con il cliente oppure in maniera autonoma scegliete? Beh, noi diciamo abbiamo individuato un criterio vendere, che è quello del fondo più capiente, Però chiaramente dal punto di vista della legge è una forzatura, perché un conto è addebitare un conto corrente dove c'è del numerario, un conto è diciamo, obbligare o indurre l'intermediario finanziario a dover disporre di quote o di titoli che sono di proprietà del cliente. È veramente una questione complicata che colpisce in maniera piuttosto complessa non solo i risparmiatori, ma appunto vedo anche gli intermediari che credo si saranno trovati in un certo momento anche a non sapere che cosa fare. Beh, certo, come quasi tutte le norme di natura fiscale sono fatte per essere complicate, per essere difficili, cioè anche questa norma non fa eccezione. No, tra l'altro pensavo anche qualche volta ad essere aggirate, perché magari molti risparmiatori invece che erano ben documentati su questa novità, chissà che tipo di operazioni hanno anche fatto nel corso degli ultimi mesi per razionalizzare il proprio portafoglio investito, renderlo appunto magari che sono meno spezzettato possibile per non essere colpiti più volte. Sicuramente, perché voglio dire, come tutte le norme che non sono lineari, e questa sicuramente non è lineare, perché come abbiamo detto colpisce con un'imposta proporzionale dell'1,5 per mille i prodotti finanziari, ma con un minimo di 34,20 €. Per quanto riguarda invece le polizze assicurative, vengono colpite, o i conti correnti o i conti postali sono esenti fino a 5.000 euro, e poi pagano un importo forfettario di 34,20 €. Quindi, come stavo dicendo, come tutte le norme che sono particolarmente complicate, si prestano a essere eluse o aggirate. E chi è che elude o aggira? Ovviamente chi ha maggiori disponibilità. Esattamente, perché il piccolo fa un po' più fatica. Allora, tra l'altro, andiamo un po' invece al tema che avevo lanciato all'inizio. Enzo, da Brindisi all'800240024, il tema del conto di deposito, che era inizialmente esente anche dall'applicazione dell'imposta di bolle, poi invece... Ma i conti di deposito sono soggetti all'imposta di bolle come tutti gli altri. Esattamente. Prodotti. Infatti, Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, mio figlio l'anno scorso è stato aperto da un consulente finanziario Direct, un conto corrente e insieme contemporaneamente anche conto di deposito. Il conto di deposito non ha mai avuto un centesimo, quindi l'anno scorso, nel 2012, per chiudere quel conto, gli chiedeva 34,20 € per chiudere quel conto. Perché, come ho detto prima, c'è l'imposta minima di 34 euro. Stanno chiedendo adesso 68,40 € per chiudere il conto di deposito. Ma è normale questo? Ha mai avuto un centesimo? No, tra l'altro, ma mi scusi, allora, fatemi capire, il conto di deposito senza nessun tipo di giacenza anche viene fatto pagare? Perché, come ho detto prima, cioè l'imposta... Allora, questi sono i casi paradossali della norma. Ferrara, allora che cosa vuol dire quella soglia minima di 5.000 euro? Quello è per i conti correnti. La giacenza media è legata ai conti correnti. Non ai in conti deposito. Quando si va a vedere sul periodo rendicontato, se c'è una giacenza media superiore a 5.000 euro, quel conto deve pagare 34,20 euro. Cosa diversa avviene per i conti di deposito, che non sono dei conti correnti, ma sono assimilabili a dei prodotti finanziari e pertanto devono pagare il 34,20 euro come imposta minima. Quindi è la regola della mini patrimoniale che non si paga per giacenze inferiori a 5.000 euro, vale solamente per i rapporti di conto corrente, non per tutte le altre tipologie, diciamo, di, anche perché il conto corrente non è un investimento, ma non per tutte le altre tipologie. Esattamente, c'è un'ulteriore eccezione che riguarda i buoni fruttiferi postali, dove anche in questo caso c'è un'esenzione qualora il valore di rimborso sia complessivamente inferiore ai 34,20 euro. E questo ha spinto molti peraltro a commentare il fatto che è stato anche un modo per favorire il risparmio appunto accantonato presso le poste. Vabbè, detto questo, volevo aggiungere altro. Certo. Un'ultima cosa, anche se è un po' una norma che va interpretata da questo punto di vista, in quanto ci sono alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate anche a riguardo che dicono che se il conto, qua si parla però propriamente di dossier titoli, anche se potrebbe essere tranquillamente esteso al conto di deposito, se non viene movimentato all'interno del periodo c'è la esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo. Quindi, supponendo di avere un dossier titoli completamente vuoto, anche se aperto, non movimentato, su quel dossier titoli non si paga l'imposta di bollo. Forse questo aspetto voleva andare ad intervenire su tutti quei dossier titoli che contengono situazioni di default, no? Per le mie vecchie, che ne so, le vecchie Parmalat, piuttosto che no, non è questo. Il bollo tassa anche la carta straccia. Aspetti un attimo che stiamo leggendo il titolo di un pezzo di Plus 24. No, come giustamente fa notare Ursino su Plus 24, i titoli senza prezzo, per cui non c'è più un mercato, come tipicamente sono molti titoli in default, come potrebbero essere appunto vecchie obbligazioni date in default, quelle vale il nominale. Quindi se io paradossalmente avessi nel mio deposito amministrato dei titoli, delle obbligazioni di una società in fallimento, per cui non si trovano più prezzi, su quelli non pago l'imposta di bollo sul valore di mercato, che in definitiva non esiste, è molto vicino allo zero, certo, trattando di società fallita, ma pago sul nominale. Quindi se io avessi investito all'epoca della sottoscrizione di questo investimento 10.000 euro, pago su quello? Certo. I 34,20 euro. Sì. Vabbè. Cioè, o l'1,5 per 1.000 sì, o se si hanno meno di 22.800 euro, i 34,20. Nel caso di 10.000 euro, 34,20. Allora, per quello che riguarda però il caso di Conto Arancio, Enzo, se lei avesse la pazienza, magari ci scriva insieme anche a suo figlio, perché a me questa situazione un po' mi disturba, perché voglio dire, uno fa una sottoscrizione di questo tipo, apre un conto corrente, un conto di deposito, non lo alimenta, ma per quale motivo? Solamente per aver messo una firma su un contratto, per carità del cielo. Poi capisco anche la ratio della norma, che è così, questo dice, però onestamente adesso fosse stato movimentato per un anno e Enzo dice per non pagare l'imposta di bollo tolgo tutto improvvisamente, magari posso anche capire se tu proporzionalmente vuoi applicare la tassa. Signor Enzo non è sicuramente da solo, perché esatto, tanto per dare un dato, in Italia 600.000 sottoscrittori di fondi investimento hanno meno di 1.000 euro. Diciamo che perché magari l'hanno sottoscritto un anno fa, stanno facendo un pack, mettono dentro 100 euro al mese, quello che gli rimane dopo aver disinvestito, n motivi, no? Diciamo che di questi 600.000 probabilmente 100.000 avranno meno di 34 euro investiti. Questi devono si vedono prosciugare il conto, addebitare 34,20 euro, anche se hanno meno di 34,20 euro. Quindi un caso simile a quello del signor Enzo. Allora, mamma, siete tutti messi bene? No, ho letto il messaggio sbagliato. Allora, quale ascoltatore accontentiamo? Stefano. Anche questo è un caso interessante. Io ho due conti titoli in due differenti banche. L'imposta si calcola indipendentemente su ognuno dei due? Credo proprio di sì, Stefano, perché sono due intermediari differenti. Sì, è un'altra distorsione della legge, per cui la legge, ancorché sia una patrimoniale, di fatto, siccome lo Stato non è in grado di tassare il patrimonio, fa gravare l'imposizione tramite l'intermediario finanziario. Quindi facciamo due casi. Esatto. Se Stefano avesse avuto 4.000 euro, se io per esempio euro ho 20.000 euro di titoli di Stato in un deposito amministrato presso un unico istituto bancario, pago 34,20 euro. Se invece io ho due depositi amministrati, ognuno da 10.000 euro, presso due diversi istituti bancari, pago due volte 34,20 euro. Quindi la stessa persona con 20.000 euro paga in un caso 34, in un caso 68. Estremizzo, se io avessi quattro dossier titoli in quattro istituti bancari differenti, ognuno di 5.000 euro, pagherei 140 o 138 euro e spiccioli, no? Quindi la tassazione, l'imposta, questa imposta di bollo, non volendola chiamare patrimoniale, ma volendola ipocritamente chiamare imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie, di fatto colpisce anche in maniera random e in un certo senso scoraggia la diversificazione. 800240024, il numero verde per i vostri interventi, tantissime domande, adesso voglio sentire tutti gli ascoltatori. Rosa Maria da Modena, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo sapere, per quanto riguarda i buoni postali, quando li ho stipulati sapevo che erano liberi, se li riscuotevo prima della scadenza non prendevo interessi, se li riscuotevo dopo la scadenza prendevo interessi. Io ho intestato dei buoni a mio figlio, e tra l'altro sono soldi che gli sono stati rimborsati per un infortunio. Siccome mio figlio è disoccupato, io pensavo di mettere insieme a questi soldi dell'assicurazione ogni mese fare un buono per lui, perché un domani non si sa più che pensione prenderà. C'è una disoccupazione tremenda, lui ha 24 anni. Devo essere, sarà tassato mio figlio su questi soldi? Grazie, Rosa Maria. Sono buoni dematerializzati sul suo conto corrente online che ha aperto in posta. Grazie, Rosa Maria. Allora, Ferrara ci aiuta per questa ascoltatrice, deve fare, come dire, tanti piccoli tagli per essere sottratta alla tassazione, quindi magari fare più buoni di piccolo importo per poterla scappare, per poterla scampare, come dicevamo prima, per poter aggirare la norma. No, sostanzialmente no. Sostanzialmente per tutti i buoni sottoscritti post 2009 si va a vedere, post conosce esattamente chi sono i sottoscrittori dei buoni fruttiferi, per cui si va a vedere l'ammontare complessivo di buoni detenuti. E viene applicato a fine anno, sul valore a fine anno di ogni di tutti i buoni, 1,010 per lo 0,10 per quest'anno, lo 0,15 per tutti gli anni successivi, fino a tanto che lui non riscatterà questi soldi. Se il valore complessivo di tutti i buoni che avrà sottoscritti nel tempo saranno inferiori a 5.000 euro come valore, a quel punto ci scatterà l'esenzione, quindi non pagherà più bolli. Quindi, diciamo, in questo senso sono equiparati, cumulati al conto corrente. Separati, il conto corrente è una cosa, i buoni sono un'altra. No, parlavo solamente riferendomi alla soglia minima, solo per quello ho fatto questo paragone. Sì, il buono fruttifero postale è come il conto corrente, nel senso che sotto i 5.000 euro è esente, però è diverso, nel senso che il conto corrente, se la giacenza è superiore a 5.000 euro, anche se fosse 1 milione di euro, paga sempre 34,20. Sotto i 5.000 non paga nulla. Sopra paga comunque 34,20. Tra l'altro, il buono fruttifero postale invece sotto i 5.000 esenti e dopo diventa proporzionale. Sotto i 5.000 non paghiamo niente, se andiamo un po' al di sopra andiamo ai 34,20 immediatamente. Ma conto corrente. Esattamente, ma questa cifra è una cifra media. Se io, per esempio, tra giugno, luglio, agosto su questo conto corrente detengo 6.000 euro, poi pian piano appunto riscendo. Si fa riferimento alla giacenza media nell'anno. Nel corso dell'anno, per cui potrebbe anche esserci il pericolo che noi riteniamo che a dicembre avevamo 5.000 euro sul conto corrente, ipotizziamo di non dover pagare l'imposta di bollo, invece in realtà la banca ci calcola tutto quello che è stato l'importo medio dell'anno. Beh, certo, e scopriamo di averla avuto 20.000 euro per da mesi, gennaio a novembre, certo. E poi c'ha 2 euro, però la giacenza media è superiore a 5.000 euro. Allora, Michele da Rimini, buongiorno. Buongiorno, sono Michele. Dunque, noi abbiamo delle assicurazioni stipulate diversi anni fa, più di 10 anni fa, no? Cioè, come polizzi vita. E volevo sapere, adesso io so che la legge Monti prevede il bollo, no, sulle comunicazioni fatte, diciamo, dall'assicurazione al contraente, no? Però tutto è rimasto sempre un po' vago. Adesso stamattina ho letto su sulla Banca del Risparmio che i bolli sulle polizze vite non sono applicati sui prodotti e polizze vite pure, quelle del ramo 1. Esatto, ramo primo. Ecco, allora mi chiedevo, quali sono di preciso queste del ramo 1? Eventualmente se si dovesse pagare, quando si paga? Al momento del rimborso dell'assicurazione? Sì, grazie mille Michele. Il ramo 1 sono quelle più semplici, non sono quelle che hanno per nulla, diciamo, contenuto finanziario. Le polizze pagano, quelle che pagano, pagano al momento del rimborso, e sono le polizze ramo 5, cioè tipicamente le unit link. Le polizze più semplici. Mercati, sì. E poi il ramo primo, quelle, diciamo, chiamate copertura caso morte, le polizze rivalutabili, sono quelle, ecco, per cui l'assicurazione pubblica rendimento e normalmente dà un rendimento minimo, sono completamente esenti, che è un altro dei casi di distorsione, cioè chi avesse 1 milione di euro in una polizza rivalutabile è esente, chi avesse 100 euro in un fondo investimento money market paga 34 euro. Vi rendete conto che non è che sia molto giusto. Ferrara vuole intervenire di nuovo sul mondo delle polizze vita, che è particolarmente complicato peraltro, perché ci sono anche altri aspetti, vero? Esattamente, quindi le polizze di ramo 1 sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, e mentre le ramo 3 e le ramo 5, ossia le ramo 3 sono le unit e le index linked, e le ramo 5 sono i contratti di capitalizzazione, queste pagano l'imposta di bollo. Qual è la peculiarità delle ramo 1 per capire se il cliente ricade tra queste, ricade tra queste. Tipicamente le polizze AMO 1 sono collegate all'andamento di una gestione separata e sono legate a una tipologia di assicurativa, mettiamola così, in quanto non hanno una scadenza predefinita, ma rimborsano il capitale al decesso dell'assicurato o viceversa in caso di richiesta di riscatto da parte del contraente. Franco da Udine, buongiorno, rapidissimo, grazie. Pronto, buongiorno. Io credo di aver già sentito la risposta alla mia domanda. Sì, infatti era sulla soglia minima. Sì, perché proprio stamattina avevo sentito una voce che mi aveva detto, parlando così con altri amici, guarda che da adesso in poi anche sui conti correnti sotto 5.000 euro verrà applicata l'imposta di bollo di 34 qualcosa. Invece mi ricordo di aver capito che questo dovrà essere esattamente come era prima. Sì, esatto, a meno che nel corso dell'anno... A meno che nel corso dell'anno l'importo sia stato più alto e quindi la giacenza media sia stata superiore ai 5.000 euro, per cui diciamo, per essere assolutamente certi, l'importante è che la giacenza media nel corso dell'anno per essere esenti dall'applicazione appunto del versamento dell'imposta di bollo sia sempre stata al di sotto di questo livello. Franco, la ringrazio, andiamo a Luigi da Grosseto. Sì, buongiorno, chiedo scusa se la mia domanda è già stata risposta. Sì, proviamo. Però volevo sapere questo, se uno presta la stessa banca ha più conti di deposito, faccio un esempio, un conto corrente sotto 5.000 euro, poi ha 4-5 conti di deposito in varie scadenze di 10.000 euro l'uno, per un totale facciamo di 100.000 euro. Stessa banca, quindi stesso intermediario. È sempre presso lo stesso intermediario, però vorrei sapere se la tassa è calcolata sull'intero patrimonio oppure sui vari prodotti che prendono il minimo del 34,20 centesimi. Grazie Luigi, se non mi ricordo male abbiamo già risposto. No, banca fa il conto per codice fiscale, quindi se lei avesse 8 diversi conti deposito con un unico intestatario, perché se lei poi ha 8 conti deposito, uno intestato a lei alla moglie, uno a lei al figlio, uno a lei al fratello, non si cumulano, sono diversi. Quindi con il medesimo intestatario, se uno ha 8 conti di deposito, si fa la somma e si applica l'1,5 per 1000. Se questo 1,5 per 1000 è inferiore a 34,20 euro, comunque si pagano 34,20 euro. Il conto corrente paga comunque 34,20 euro a me e non viene quindi messo insieme ai prodotti finanziari, ai conti di deposito, ai depositi amministrati, a meno che la giacenza media non sia stata inferiore a 34,20 euro, in quel caso si paga zero. Aldo da Cuneo come ultima telefonata, o forse ce la facciamo anche prendere un'altra. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io volevo chiedere, io al 31-12 sul conto, sul versi titoli avevo zero, perché per problemi miei li avevo liberati sì, a metà di dicembre, tutto, però tutto l'anno l'ho avuto. Infatti. Qua come ci comportiamo? Aldo, allora, paga. Ecco, questa è un'altra delle assurdità della legge, no? Il signor Aldo paga 34,20 euro. Quindi, se il signor Aldo avesse avuto fino al 20 dicembre 1 miliardo di euro, poi ha venduto tutto e gli è rimasto un euro, 0 euro, lui su quel deposito amministrato paga 34,20 euro. E quindi insomma Aldo, abbiamo capito, abbiamo messo insieme questa mattina tutte le problematiche aperte relative all'applicazione della mini patrimoniale. Come sta andando la vostra sottoscrizione? Vi avevano chiamato FOA, insomma qualcuno si è mostrato un po' interessato a cambiare questa impostazione grazie anche alla vostra campagna di sensibilizzazione, 12.000 persone che vi seguono solamente su Facebook. Quasi 13.000, devo dire che noi abbiamo contattato diversi deputati e senatori per sensibilizzarli sul tema di tutti gli schieramenti, ma la cosa che ho rilevato con sorpresa è che quasi tutti non sapevano cosa avevano votato. Cioè, alcuni hanno avuto investimenti questo alcuni mese, hanno ecco, avuto una un sussulto no, di alcuni scandalo. Hanno avuto una reazione di sorpresa, dice ma davvero. Stai dicendo? Molto bene, allora quando arriverà loro la rendicontazione sui loro investimenti se ne accorgeranno. Grazie ad Alberto Foà, risparmiamocelo, www.risparmiamocelo.it, Marcello Ferrara, Consultic per la campagna invece per promuovere l'albo dei consulenti indipendenti. Grazie a tutti, buona giornata. We'll be right back.